Spazio anche oggi alla poesia religiosa in vista del Premio Internazionale San Sabino, nona edizione. La scadenza, lo ricordo, è il 31 di marzo, la premiazione alla Pieve di San Sabino a Torreglia, alla fine di maggio, il giorno 27. Parola e mistero, ne stiamo parlando appunto in queste settimane. Ritroviamo e risalutiamo Don Giulio Osto. Bentornato Don Giulio. Buongiorno a voi. Cantiamo Torreglia, qui parliamo di un, si dice in inglese, non c'è altra espressione, experience book, ok, un libro attraverso il quale fare un'esperienza di vita, un'esperienza spirituale, in questo caso credo anche musicale, un testo che è già disponibile, edizioni Project, a 15 euro in libreria oppure online. Di cosa si tratta e da chi partiamo per cantare Torreglia? Ecco, la poesia è di casa a Torreglia ed è di casa proprio nel luogo che ispira questo concorso letterario, il premio San Sabino, perché visitando la chiesa di San Sabino, che sorge sopra il Colle della Mira, a 130 metri di altitudine al centro di Torreglia, possiamo ammirare una grande targa collocata all'interno della chiesa. E questa targa marmorea ricorda i versi di Niccolò Tommaseo, ecco, questo poeta e patriota morto nel 1874. Ebbene, Niccolò Tommaseo, quando era studente a Padova dal 1817 al 1822, si recò a Torreglia a visitare, a far visita al suo professore Giuseppe Barbieri, che tra l'altro è sepolto proprio nella chiesa di San Sabino, altra testimonianza poetica di questo luogo. Ebbene, dopo questo incontro a Torreglia, il giovinetto Tommaseo, perché aveva solamente 17 anni, scrisse una poesia in latino dedicata a Torreglia. E questa poesia in latino comincia proprio così: Taurilliam canimus, cantiamo Torreglia. Ecco dunque svelato il mistero del titolo di questo volume, che intende riscoprire una poesia di Niccolò Tommaseo interamente dedicata al piccolo paese euganeo. Non era breve questa poesia, 87 versi in esame trilatini, quindi insomma già a 17 anni sfido qualsiasi studente liceale a comporre in latino in esametri alla sua stessa età. Esatto, infatti il professor Giuseppe Barbieri, l'abate Barbieri, che visse a Torreglia fino alla fine della sua vita ed è sepolto appunto nella chiesa di San Sabino, ci siamo negli anni, nella prima metà dell'Ottocento per collocarci nel tempo, intravide, ecco, questo enfant prodige all'università e lo invitò a casa sua, proprio scorgendo il grande talento di questo adolescente, che si rivelò tale proprio anche in questo componimento, che celebra le bellezze di Torreglia, così come recita la targa che c'è nella chiesa, scritta dal famoso filologo Carlo Diano: cantò non ancora diciassettenne in versi latini le bellezze di Torreglia. Ebbene, questa pubblicazione nasce all'interno del premio San Sabino, è un'iniziativa correlata al premio di poesia proprio perché vuole riscoprire questa poesia di Tommaseo, quindi di un autore, ecco, noto e anche importante, dedicata al paese che promuove questo premio di poesia. E il volume presenta tre parti. Nelle prime due parti una nota studiosa di Tommaseo, Patrizia Paradisi, una professoressa di Modena, proprio ricostruisce sia la vicenda complessiva del componimento nella prima parte, e poi nella seconda invece offre una introduzione e un commento al testo che viene tradotto e viene analizzato in tutte le sue parti. Poi però la poesia si presta a essere una bellissima guida per il paese di Torreglia. Ecco che gli 87 versi vengono suddivisi in 5 itinerari, in 5 tour attraverso il paese di Torreglia. La poesia viene tradotta in italiano, in inglese, in tedesco e commentata da 45 foto d'autore, impreziosite da 30 didascalie che raccontano un po' luoghi, ecco, di Torreglia, e anche da 7 acquerelli realizzati da Angelo Marcolì, una persona di Torreglia, che illustrano appunto il paesaggio. Quindi si è trattato di mettere assieme la poesia del paesaggio con il paesaggio della poesia, ecco, un incontro con Torreglia e con questo testo. Il tutto ha avuto poi un grande regalo, poiché il volume illustrato, appunto con 45 fotografie e 7 acquerelli, porta una prefazione del decano, potremmo dire, dei latinisti italiani, il professor Alfonso Traina, ultra novantenne, che però ha fregiato con una sua prefazione questo volume tutto colorato. Noi liceali degli anni Ottanta, insomma, ricordiamo bene il nome di Traina per aver studiato con fatica sui testi. La composizione di Tommaseo era, come era immaginata? Era immaginata come un percorso, come poi lo avete tradotto voi nel testo? Allora, Tommaseo, chiaramente attraverso tutta una serie di citazioni letterarie, perché i riferimenti virgiliani oppure ovidiani o ad altri... Parlando di ambiente, insomma, di natura sono anche... Sì, ogni poesia è un viaggio. È un viaggio sicuramente nella mente del poeta, ma è anche un modo di attraversare il mondo, perché la poesia è un modo di vedere la realtà. Ecco, nel caso degli 87 versi di Taurili e Descriptio, Descrizione di Torreglia, questo è il titolo del Carme latino, ecco, si tratta proprio di una passeggiata letteraria che incontra certamente la flora, descrive i monti, addirittura parla dell'origine dei colli, dell'origine vulcanica, descrive gli scenari, i paesaggi, poi al suo interno descrive la villa di Barbieri, è un po' un elogio sia di Barbieri, sia della sua villa, sia del paesaggio circostante. Ma poi Niccolò Tommaseo crea anche poi tutta una serie di dialoghi con i personaggi letterari dei Colli, il riferimento a Francesco Petrarca e ad Arquat è obbligato, ma anche a Melchiorre Cesarotti, che aveva la sua villa a Selvazzano e che fu maestro di Barbieri e che tradusse le poesie di Ossian, che tutte legate al paesaggio, ma anche il ricordo di Ugo Foscolo con lo Jacopo Ortis ambientato nei Colli e che Foscolo scrisse quando fu ospite nella villa a Feriole, che ancora esistente. Ecco, quindi una passeggiata proprio che intreccia poeti, paesaggi, descrizioni naturalistiche, descrizioni storiche, non manca per esempio la descrizione dell'eremo di Rua, che quando Tommaseo scrive questa poesia nel 1819 era chiuso dopo la soppressione napoleonica, quindi per esempio questo è un documento storico molto interessante perché Tommaseo descrive lo stato di degrado del colle di Rua proprio in seguito alla soppressione napoleonica. Quindi sono tanti i luoghi letterari, i personaggi letterari, ma anche le descrizioni naturalistiche che si intrecciano in questi 87 versi. E allora, lo ricordiamo, cantiamo Torreglia, una poesia di Niccolò Tommaseo, con gli interventi di Lucia Marchesi, Patrizia Paradisi, la prefazione del professor Alfonso Traina e Don Giulio Ostro, che è stato con noi a presentarcelo, nell'ambito appunto del Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino. Il testo, questo di cui abbiamo parlato oggi, Cantiamo Torreglia, è disponibile in libreria oppure online edizioniproject.it. Grazie Don Giulio, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a voi e buona giornata.